24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io però... non ti faccio parlare. No, tu non ce l'hai detto che mi fai parlare. No, ma io non sono democratico. Però un minuto, dammela. Ma non sono democratico con voi. Esci da questo blog, Beppe. No, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, cara. È finita. Buona giornata. È stato un piacere vederti. È stato un piacere per te. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Buongiorno, Vito Crimi, buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno. Grillo è andato alla consultazione, l'abbiamo visto tutti, è uscito dal blog in un certo senso. Ma era quella la domanda da fare alla rete? Vado o non vado alla consultazione? Quella era la domanda giusta, secondo lei? Ma guardi, sì, in quel momento era quella la domanda giusta. Noi avevamo anche ricevuto tantissime sollecitazioni, e lo dobbiamo confessare, ma anche al nostro interno, per andare... Ma le sollecitazioni per andare non erano per andare a dialogare o andare a fare chissà quali aperture. Ma per andare a fare cosa allora? Guardi, una testimonianza fisica? Con molta franchezza, io evito di utilizzare i linguaggi che ho trovato in rete. Nei no, no, ma mi dica la sua. Il più semplice era vallo ad asfaltare, questo era il senso del... Ma asfaltare voleva dire insultare, picchiare, cosa vuol dire asfaltare? No, no, andagli a cantare quattro, come ha fatto Beppe. Io le dico però una cosa, voi avete fatto passare l'ultimo sì, pezzo. Sì, vabbè, una piccola sintesi perché c'era lei. C'è il primo pezzo iniziale in cui Matteo Renzi, io no, non ti devo chiedere fiducia, non ti devo chiedere niente, non sono qui a chiederti nulla. Allora Beppe l'ha guardato, cioè, beh, allora che siamo venuti a fare? Cioè, ma perché se Renzi avesse chiesto qualcosa, Grillo avrebbe dato una disponibilità? No, però partiamo da una consultazione, quando qualcuno ti dice no, guarda, io non ti chiedo niente, allora vabbè, allora a che serve la consultazione? Ha dimostrato quindi diciamo di questo confronto inutilità come dire, reciproca, diciamo così. Ma sicuramente, ma Beppe ha fatto quello che la rete gli ha suggerito di fare, cioè di andare comunque a vedere. Ma lei era favorevole o no che ci andasse? No, io avrei preferito che non andasse, però perché lei come parte, vabbè, ma normale, no, la ritenevo inutile per queste motivazioni un po' per come si è, anche perché vado ma se vado non chiarisco niente, non discutiamo, il senso è, ma guardi, non è che c'è molto da chiarire, no, ma appunto dico era inutile guardi, farlo, diciamo. A Renzi c'è poco da dire. Renzi, guardi, è un'operazione di marketing, faccia, cambia faccia la stessa maggioranza. Questo vediamo quando arriverà l'elenco dei ministri, faremo una valutazione. Sì. No, ma infatti i ministri, poi la maggioranza è sempre quella, non è che vabbè, cambia. Io non l'ho ancora letta la lista, quindi non giudico. Senta, la rete però è stata poi divisa sull'esito del confronto, obiettivamente, no? Abbastanza, in modo abbastanza significativo. Lei se l'aspettava oppure no? Ma la verità no, nel senso che non l'ho vista così tanto divisa. Beh, un pochino, cioè, insomma, obiettivamente, adesso... Lei ovviamente ha accesso alla rete, che è quell'insieme di commentatori o altri che accedono ai suoi canali, alla alla sua radio. Insomma, allora sulla vostra, allora mi dica, sulla vostra tutti d'accordo? Guarda, io no, c'era qualcuno ovviamente che ha dissentito, ma la maggior parte, ma quasi l'80% per i messaggi che ho ricevuto erano, ha detto quello che avrebbe voluto dire tante altre persone. Qualcuno mi ha scritto, per me il messaggio più bello: se il PD avesse usato questo tono con Berlusconi in passato, probabilmente il Movimento 5 Stelle oggi non sarebbe al Parlamento. Questo è uno dei messaggi secondo me più significativi. Senta, ma i senatori che oggi leggevo sui giornali sono in dissenso, fanno parte della dialettica democratica? Fanno parte della dialettica democratica, certo, quando poi diventa un gruppo organizzato che comunica alla stampa ogni contestazione di ogni azione in maniera organica, organizzata, eccetera, non è più una esternazione di dialettica democratica, ma è proprio un gruppo nel gruppo, una corrente, dico la verità, insomma, e quindi? Diciamo, e quindi le correnti è meglio che non ci sia le correnti le vadano a fare da un'altra meglio parte. Che se ne vadano, insomma, dice prendano la loro strada, facciano sì, vabbè, risponde come un democristiano. Mamma mia, come ha imparato in fretta. Senta, guardi, è un invito, mettiamola così, a prendere la un loro invito strada. A prendere la loro strada. Senta, anche in Sicilia c'è stato un problema analogo di disconnessione con la volontà della rete. Va bene anche lì? Cioè, in che senso c'è stato? No, mi perdoni, mi manca qualche passaggio. No, nel senso che in Sicilia mi sembra che si siano mossi in un modo diverso da come era previsto dalla rete. Ma non mi sembra proprio. No, tutto bene in Sicilia. Non mi sembra che ci sia stato questo passaggio. Parliamo dei nostri consiglieri. Sì, sì, naturalmente, certo, sì. No, assolutamente. No. Senta, ma è stata votata l'abolizione del finanziamento pubblico che voi chiedevate? Soddisfatto del come oppure no? Assolutamente no. No, è sempre un passo avanti, è sempre un passo avanti verso la riduzione, ma il finanziamento pubblico purtroppo c'è e rimane. Ci mette tre anni per essere... No, ecco che vorrei chiarire questo, non è vero questo che ci mette tre anni, ci mette tre anni semplicemente per andare a regime il fatto che sarà un altro tipo di finanziamento pubblico, sempre pubblico è, perché quando per finanziare il decreto devi fare uno stanziamento di 45 milioni di euro. Vabbè, insomma, sono lei dice sono soldi pubblici. C'è un passo avanti, ma non basta. Una domanda, Mario? Sì, ma buongiorno Crimi, sono Mario Secchi. Sì. Non le sembra che, insomma, dopo un anno di legislatura, alla fine il bilancio politico del Movimento 5 Stelle sia una sorta di vaffa continuo senza aver costruito niente? No, guardi, le dico con sincerità, io non faccio il bilancio politico nel senso classico del termine, io faccio il bilancio su quelli che sono i risultati ottenuti e di risultati ne abbiamo ottenuti tanti, non sono quisquilie, risultati ne abbiamo ottenuti, basta vedere anche gli ultimi decreti degli ultimi giorni, hanno avuto dei grandi miglioramenti grazie anche al nostro contributo, anche quello sul finanziamento ai partiti. Vabbè, quindi c'è stato un contributo che fa migliorare, questo sta dicendo. Siamo l'opposizione, stiamo facendo per adesso stiamo limando le unghie, stiamo un po' graffiando. Poi guerra è ancora lunga. Senta, c'è buttafuoco per chiudere, c'è buttafuoco anche chi vuol farle una domanda. Buongiorno, torno alla domanda che aveva fatto Giovanni Vinoli prima sui problemi siciliani. Io la faccio semplice, la questione è questa. Voi avete avuto lì uno smagliante, il vostro primo smagliante successo. Poi ne è generato fuori il governo Crocetta. Crocetta gioca molto con l'appoggio sotterraneo del Movimento 5 Stelle, a maggior ragione su questa truffa straordinaria che è quella della finta abolizione delle province. Ecco, qual è la sua risposta definitiva? Toglierete l'ossigeno a questo governo Crocetta oppure no? Sì o no? No, guardi, questo deve chiedere ai siciliani. No, non è compito mio decidere sui siciliani. Okay. Questo è la sua opinione? Però vorrei precisare una cosa. In Sicilia non esiste la fiducia al governatore come esiste. Il voto segreto sì, però. E quindi non esiste la fiducia al governatore, però voglio dirle, che quindi significa che l'appoggio che definito sotterraneo è semplicemente l'appoggio che abbiamo sempre dato, per quando una cosa è buona l'appoggiamo, quando non è buona diciamo no, punto. Senta, questa è una nostra politica che teniamo sempre. Va bene, senta, onorevole Crimi, lei ha visto Sanremo? Un minuto, cinque minuti, dieci minuti? Ho visto l'inizio della prima puntata, perché insomma, volevo vedere cosa succedeva di eclatante quest'anno, visto che le è piaciuto, i primi 10 minuti le è piaciuto? Sono sempre... I primi 10 minuti ti sono piaciuti? Guardi, che le devo dire? Sì o no? Cioè, quella scena degli operai è stata un po'... Vabbè, quella l'avevamo già vista con Pippo Baudo. Va bene. Grazie. Grazie. E allora andiamoci a Sanremo. Bellezza è un uomo che si laurea a 80 anni. Bello è fare una telefonata solo per chiedere come stai. A volte è bello anche essere cretini, se lo si fa con un certo garbo. La RAI è la maggiore responsabile del disastro economico, politico e sociale di questo paese. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. saremo una mammella a cui chiunque si aggrappa per succhiare il latte della visibilità. La RAI è una cosa meravigliosa, 13.000 dipendenti che costano 1.700.000.000 ai cittadini, 1.700.000.000 per 13.000 dipendenti, e invece 1.400.000.000 viene fatto con lavori dati in appalto fuori. I dream of a place and time where nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there. In un momento in cui le religioni sembra che spesso abbiano un ruolo quasi più divisivo fra le persone che di unità, ecco, lei può dirci invece qual è secondo lei il terreno comune di incontro fra tutte le religioni? La seconda puntata del festival, vedremo quella di ieri sera, non è andata bene come quella dell'anno scorso. Ha perso il 10% di share, e questa perdita del 10% significa, in termini di introiti pubblicitari, una cosa molto semplice e molto chiara. Avendo la RAI venduto molto bene la pubblicità del festival sulla base di ascolti dell'anno scorso, significa che alla fine del festival, se le cose resteranno così, la RAI dovrà restituire agli inserzionisti l'equivalente dei 10 punti di ascolto. Restituire significa naturalmente non quattrini, non soldi, ma spazi pubblicitari fino a esaurire il debito. Quando sarà finita si saprà, ma le premesse non sono buone. 800 24 00 24, il numero verde, l'SMS 349-238-6666. Abbiamo con noi molti ospiti. Mario, una battuta un veloce, flash. Qual è la ragione del calo dal punto di vista del racconto televisivo, secondo te? È la ripetizione del canone fazzista, che però già noi vediamo in un'altra trasmissione che lui fa, che tempo che fa. E quindi non c'è innovazione. Sì. Ecco, secondo te, Pietrangelo, dal punto di vista estetico c'è... Tanto non so se l'hai visto. Ho visto alcune cose e me ne sono ritratto schifato. Una per tutte, vale. Io faccio una citazione testuale e mi scuso con gli ascoltatori. Davanti alle gemelle Kessler, due bellissime signore quasi ottantenni, la star fighetta in assoluto, cioè la Littizzetto, dice, faccio i due punti, apro le virgolette, queste qui per depilarsi, tanto hanno le gambe lunghe, cominciano di venerdì e finiscono domenica per arrivare all'inguine lunedì. Ecco, chiuse le virgolette. Una battuta simile è ributtante, a maggior ragione per una fighetta come lei che conosce tutta l'etica e l'estetica del corpo delle donne. È ributtante perché denota tutta la volgarità, il turpiloquio, la mala lingua, okay, che offende non solo chi ascolta perché se ne ritrae, ma soprattutto non ha nessuna giustificazione in termini di spettacolo. E quindi, conferma molto, quello che dicevamo. Molto precisa. Al telefono abbiamo Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica. Ecco, secondo te perché questo calo? Hai una tua analisi di contenuto, estetica, come è stato detto da più parti? Ma buongiorno. Buongiorno. Sono state dette cose abbastanza giuste, soprattutto sulla ripetizione faziana. Alla precedente tornata, quella del 99-2000, Fazio fece la stessa cosa, sbagliò la seconda edizione consecutiva per essersi innamorato troppo e per aver insistito troppo sulla cosa che all'inizio con Gorbaciov e compagnia invece era andata benissimo. Certo. È successa più o meno la stessa cosa. Lui si innamora non solo delle cose di quel registro, del fatto di dover intervenire, far venire dentro le religioni e così via, ma per esempio quella tutto. Prima puntata è stata secondo me demolita da un numero inconcepibile, da quel numero inconcepibile di Letizia Casta, che messo in quel momento non funzionava, è durato 35 minuti, ha ucciso le speranze, diciamo, o ha dato un segno per cui quelli che non volevano tanto starci sono andati. Ecco, ma le ragioni di Pollina, le ragioni tecniche, luci, regia, colori, il cambio di prospettiva dato dalla modifica del palco, l'allargamento del palco e la riduzione delle poltrone in prima fila, che hanno praticamente reso asettico il contatto col pubblico, possono aver influenzato? Sacca, l'ex direttore generale, racconta di questa sua osservazione. non ha evidentemente, non sta funzionando, non è andata bene, non era una buona idea. Sono cose che poi te ne rendi conto, soprattutto però quando prendi, parti e vai e succedono delle cose e te ne rendi conto in quel momento. Da quel punto di vista, scrivere queste cose è un azzardo in ogni caso. Poi per qualche motivo non va, secondo me, non tanto per quello, perché alla fine poi basta vedere i commenti continui su Twitter, si dileggia soprattutto sulle solite cose, sulla stonatura, sul vestito, sull'abito, su queste cose qui, o sul fatto che ci si annoia. Ma quindi diciamo pretenzioso, quello sicuramente funziona, ma io non ho mai creduto che il pubblico ci tenga tantissimo a una un racconto, insomma, eccessiva di scenografia, ambiente, cose. Cioè tu pensi che non incida qualcosa, molto, ecco. Tu pensi che non incida molto, però l'occhio televisivo, il telespettatore inconsciamente, certo, è abituato, non è irrilevante la forma e il contenuto, diciamo, hanno la loro. Che sia una cosa che da qui alla fine può dipendere tutto, a leggere quantomeno quello che succede e quello, sì, che si dice in diretta, alla fine c'è il rito che o va bene o non va bene, e a fatto è sempre successo che all'inizio è andata bene e poi non ha funzionato da subito. Vabbè, quindi diciamo c'è una cosa settimanale che si chiama Che tempo che fa, che fa le stesse cose ed è vista da un numero non sanremese di persone. Evidentemente ai sanremesi devi dare altro. Grazie. Allora mi sembra un giudizio abbastanza preciso. Abbiamo Andrea Salerno, autore di Gazebo, che è un programma cult della Terza Rete, dal punto di vista di chi fa programmi anticonformisti, un po' come il tuo. Ecco, che cosa manca a questo Sanremo? Ma guarda, Giovanni, tu lo sai meglio di me. Io credo questo, che quando rompi una liturgia, e Sanremo è una liturgia, io non sono tanto d'accordo con Di Pollina quando dice che non contano le immagini, la scena, infatti, eccetera. Sanremo è una messa, sì, alla sua liturgia, certo. Siamo sempre, tutti gli anni, a parlare della valletta mora, della valletta bionda, di come scendono le scale, del colore, dell'orchestra in mezzo ai fiori. Allora, quando tu fai per la prima volta un Sanremo di rottura, che, sì, rompe la liturgia, funziona. Sì. Se lo ripeti uguale è diverso. Probabilmente il secondo anno funziona un po' di meno. Poi, sai, vedo grandi discussioni ovviamente sui singoli pezzi. C'è chi non è piaciuta la Cassà, c'è chi non è piaciuto ieri sera il pezzo. No, ma io volevo chiederti una cosa diversa. Sì. Proprio il problema del racconto debole, rallentato, problemi di estetica televisiva. Ne vedi? Per esempio questo discorso del palco allargato, della perdita della fisicità, del rapporto fra il pubblico e il palco, che a Sanremo è sempre stato un elemento che giustificava anche il fatto che eravamo Sanremo, se no uno va in uno studio televisivo. Ma quello che ti posso dire è che esteticamente quando metto su Sanremo non riconosco che è Sanremo, ecco, quindi queste appunto cose effettivamente contano, secondo me pagano un po', perché poi la cupezza che, diciamo, che aveva funzionato lo scorso anno, la fabbrica, il materico, in un momento come questo forse ci vuole un po' più di allegria. Allegria, ecco, ma tu cosa avresti fatto, tu autore di Gazebo, cosa avresti fatto dal tuo punto di vista per attirare di più anche un mondo giovane? Perché un dato molto interessante, anche inquietante, è che alle 10:30, finita la partita del Milan, in realtà la gente è andata sulle altre, che sono passate dall'8% al 23%, quindi vuol dire che c'è stata proprio una non capacità di raccogliere. Guarda, per fortuna questa cosa non penso che mi capiterà mai, quindi diciamo cosa avrei fatto, forse non mi succederà mai. È anche vero che sui dati delle seconde serate ormai le altre anche quotidianamente incidono in maniera pazzesca, certo. Le seconde serate ormai ognuno sceglie la cosa che vuol vedere. Cosa avrei fatto? Non lo so, non lo sai. Le stesse cavolate che qualche cavolata l'avrei fatta anch'io, ma sai, sui singoli pezzi poi entra in diventa lungo. Eccetera. Va bene, grazie Andrea Salerno. Professor Simonelli, ecco, l'analisi. Buongiorno. Buongiorno, l'analisi delle curve l'ho accennato adesso. Con intanto ricordo 800 24 00 24 per chi volesse telefonare, 349 3899-2386666. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che gli sms sono benvenuti, quelli di complimenti, anche quelli di insulti, a patto che siano firmati. C'è Giorgio da Napoli, un attimo professore. Giorgio? Pronto, buongiorno. Ecco, buongiorno, dica la sua. Io vorrei dire semplicemente che la RAI in questo momento sta pagando una mancanza di sia di contenuti ma anche di innovazione tecnologica, nel senso che è impensabile secondo me che la RAI continui a immaginare un Sanremo assolutamente tradizionale. Dal punto di vista tecnologico, la tipologia di tecnologia usata a Sanremo in realtà è la più avanzata che esiste. Il problema è come della ripresa è che oggi secondo me la gente si aspetta qualcos'altro, vuole interagire in maniera più diretta, vuole cercare di essere più coinvolta e quindi un contenuto che è vecchio perché è soltanto una nostalgia del passato, con una vecchiaia che si riflette anche nella tecnologia, ahimè il risultato a un certo punto grazie. È condannato, è quello. Grazie professore, allora dicevamo... Sì, io vorrei riportare il discorso su un piano anche più semplice. Sì. Nel grande racconto sanremese di quest'anno rispetto all'anno scorso mancano le canzoni, perché l'anno scorso che cosa era accaduto? Al di là appunto del fazzismo come viene definito, Fazio aveva avuto un grande colpo d'ala nella cercare e trovare cantanti e canzoni. Vi ricordo almeno 3-4 momenti molto emozionanti, Elio Le Storie Tese, Daniele Silvestri, Simona Molinari, per motivi diversi tra loro tre, però c'era stato un festival che aveva in realtà riportato al centro del racconto la canzone. Quest'anno non è andata altrettanto bene. Non è andata così. Non è andata bene. Ma è oltre questo, secondo... E sono emarginate. Io ho colato la prima sera, che è quella di cui si discute, alle 11:15, alle 10:45, si erano cantate due canzoni in concorso. Il racconto non c'era, va avanti. Tutto se il racconto è il racconto che deve proclamare un vincitore sabato sera, il racconto si era bloccato subito all'inizio. E questo, dal punto di vista narrativo, è un errore. Ecco, professore, ma Mario, secondo te è finita l'era Fazio Litizzetto o è una battuta d'arresto? No, finita no, perché hanno un altro programma. Il problema no, è che non finita fa... dal punto di vista del racconto, dell'esaurimento della loro dinamica, della loro creatività. Oppure no, può essere. Può essere. Vabbè, no, non credo che sia finita, perché comunque sono pur sempre il dante causa dell'immaginario. Si sono impossessati dell'immaginario nazional popolare, anche se minoritario, comunque in barba a ciò continueranno. Anche perché la RAI sarà ben lieta di foraggiarli. Beh, però guarda che i fenomeni culturali ci sono cose che anticipano, e questa secondo me è un segnale in realtà. Vabbè, vedremo le prossime puntate, professore. No, pubblicità, poi continuiamo. Grazie. Mix 24. Battistini. Cosa bolle in pentola? Allora, Giovanni, noi dobbiamo occuparci subito in apertura di questa nostra parte dell'Ucraina. Standard & Poor's la prendiamo da un punto di vista che è poco considerato, invece è il fenomeno che ha scatenato tutto. Standard & Poor's dice che il rischio di default del paese è molto concreto. C'è un accordo in corso proprio in questi minuti tra le varie parti, tra l'Europa, la Russia, i forum internazionali. C'è la Francia che è molto cauta, do un aggiornamento così in diretta. La verità è che qua c'è un programma di salvataggio della Russia che era stato accettato di 15 miliardi. La storia dell'Ucraina è sempre quella nota, cioè che è sempre stato il paniere della Russia in qualche maniera, e l'Europa l'ha ignorato, e l'Europa ha parlato tanto, si è riempita la bocca, ci ha fatto i campionati europei di calcio, io vorrei ricordarlo, che furono in Polonia e in Ucraina, ma è pronta a scucire i soldi, perché questa è una questione di danaro. Soprattutto. Ecco, Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Kiev, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ecco, senti, adesso hanno firmato un accordo preliminare, mi sembra, no? Che cosa succede? Ma l'accordo è più che altro un cerotto al momento, perché serve a bloccare il sangue. Diciamo che succede che Yanukovych, il presidente, ha in parte accettato la proposta, che era una proposta polacca, di concedere qualche ritocco alla Costituzione, di andare a elezioni tra un anno più o meno, e di quindi fare un governo provvisorio. Ma intanto i morti quanti sono, si sa? Guarda, sui morti veramente c'è un balletto di cifre. Certo, come sempre in questi casi. C'è sempre, esatto. Siamo, direi che per stare forse la cifra più... ragionevole, in realtà, sì. Che l'ha data l'ambasciatore italiano ieri, che era sopra i 50, sì. Ecco, però ci sono, perché il problema è che molti, a parte i feriti, non si possono contare perché non ce l'hanno a farvi interpellare la paura di essere denunciati o arrestati. Invece sui morti molti addirittura sarebbero, cioè, alcuni sono stati portati negli ospedali di Stato, diciamo così, altri sono stati portati nelle morgue gestite in qualche modo da dall'opposizione. Ma dal punto di vista politico, la sensazione che possa finire come le primavere arabe, cioè? Ma no, direi sono due fenomeni molto diversi. Certo, naturalmente. Ma... No, manca una spinta, diciamo così, fanatica della piazza al momento, perché quest'ultradestra, che è quella che più preoccupa e che agisce in piazza, che è quella che... adesso ha dato questa accelerazione alla protesta negli ultimi giorni, in realtà è molto cioè non è molto popolare, ecco, non riscuote un grande consenso. C'è da dire però che l'accordo che ha firmato stamattina alla piazza non piace, cioè se uno va su Facebook in questo momento i commenti di tutti i piccoli leader della piazza sono commenti negativi, negativi. Si fida di un presidente che non ha accettato nulla fino adesso, ha fatto un sacco di morti. Che ha cambiato il capo delle forze armate, no? È un segno in che direzione questo? Il cambio delle forze armate è stato il capo di ieri è stato un brutto segno, perché è stata la svolta che ha portato alle sparatorie, perché ha scelto un falco rispetto a uno che non era proprio una colomba, ma comunque non era disposto a fare quello che è stato fatto ieri mattina. Il vice che oggi si è dimesso, invece, si è dimesso proprio in dissenso con la politica del nuovo capo, quindi nell'esercito c'è forte malumore, perché per una serie di ragioni, anche perché l'esercito è stato messo in prima fila nei momenti più difficili, con ragazzi di leva, dei diciottenni che avevano poca esperienza, questo nei mesi scorsi, quindi c'è una riluttanza. Ieri ci sono stati casi di soldati che venivano portati dall'est su Kiev coi treni e che sono scesi dal treno e si sono uniti ai manifestanti, quindi sono dei fenomeni. Va bene, stiamo a vedere. Ti ringrazio, Francesco Battistini del Corriere della Sera da Kiev. Mario, cosa continuiamo? Guarda come brillano quando arrivano gli sbirri, sotto sotto, gratta gratta, sono loro i veri Yankee, sono loro il risultato del disastro nucleare, sono loro i veri figli di questa sporca falsa pace, con la faccia di Guevara. Allora Pietrangelo, allora, cosa si canta oggi? Ascoltando Battistini, poi ascoltando anche te che ponevi la domanda giusta, cioè se assomiglia a quello che è accaduto nelle primavere arabe, a quello che è accaduto nel tempo, a quello che accade sempre, ho pensato che la scelta musicale di oggi non potesse essere che, come mai, di sottofascia semplice, dove c'è la descrizione appunto di questa elettricità che prende nelle piazze, di qualcosa che poi diventa fuoco, di quel fuoco che diventa incendio, dove c'è sempre chi specula, dove c'è sempre chi organizza la regia, dove c'è sempre qualcosa che non ci permette di capire fino in fondo, e quindi come mai? Capitai. Guardan la patria che il cielo non dio, patria, patria, patria querida. Sapete chi è questo? Chi è? Hugo Chavez. Lui proprio? Lui proprio che cantava. Allora, perché? Perché andiamo in un altro posto dove c'è turbolenza, come suol dirsi, ed è il Venezuela. In crisi nera, lo sapete tutti, ci sono degli scontri in piazza sempre più intensi, un morto l'altro ieri, stanno salendo 5-6 nel giro di pochi giorni. Il presidente socialista Maduro tiene duro, scusate la rima, però ha detto che l'ultimo morto era vittima di un proiettile fascista. Una cosa è certa, c'è un grande gioco geopolitico in corso nel Sud America, perché Argentina, Ecuador e Bolivia lo sostengono, Colombia, Cile e Perù sono contro. Anche là il discorso è sempre quello di legittimazione di un'elezione avvenuta un anno fa, un avversario forte, una crisi economica difficile e insomma scelte, diciamo, di nazionalizzazione di alcune cose eccetera, che lasciano il tempo che trovano e quindi problemi. Sai cos'era questo? Questo è il rombo di un motore Ferrari, per essere chiari. Il perché? Più famoso nel mondo. Perché bisogna allacciare le cinture. Giovanni, il totale degli accordi nel settore high tech, quindi acquisizioni, eccetera, ha raggiunto la bellezza di 50 miliardi. L'ultimo tra Facebook e WhatsApp, ovviamente, ha dato un grande contributo. Beh, è un concentrato di controllo, diciamo, di controllo orwelliano, ma penso che siamo oltre. Beh, direi di sì. È un tetto mai toccato, parlo dal punto di vista economico finanziario, neanche quando c'era la bolla di inizio degli anni 2000, insomma dell'anno 2000, sì. Di fatto poi scoppiò, quindi io ripeto, calma, vedi, attenzione, calma. Occhi. Beh, io dico di stare attenti, poi insomma sai, quando c'è tutta questa emissione di soldi e questo rally così forte in borsa, c'è sempre qualcosa che cade. Poi è chiaro che siccome un mercato ormai maturo, quello della cosiddetta new economy, che non è più new, certo, ma è l'economy, è l'economy e basta, è chiaro che c'è della roba buona dentro, come no, però intanto noi andiamo con i nostri salamini. Ieri ve la prendevate tanto con i retroscena e i retroscenisti. Ricordo, voi due. Ma invece noi siamo per i fatti. Dovreste considerare che c'è una grande pagina di narrativa, che è quella del retroscena giornalistico, che ci accompagna ai fatti attraverso i colori, i sussurri e i che diventano poi racconti veri. Altrimenti come faremmo oggi a rinunciare a un pezzo fantastico di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, no, che ci svela un fatto vero? Allora, la questione è questa, Giovanni. Il Berlusconi in persona e il berlusconismo in genere è pazzamente innamorato di Matteo Renzi, no? Hanno trovato il Renzi, anche perché Berlusconi, fateci caso, per la prima volta ha deciso di essere vecchio. Sai, c'è sempre qualcuno che si innamora del proprio carnefice, succede, come diceva Lenin, ci venderanno la corda con cui li impiccheremo. Detto ciò, lui ha deciso di essere vecchio e quindi ha stabilito che la giovinezza sia appaltata ormai a Matteo Renzi. I fatti lo dicono, ma il retroscena di Tommaso Labate ci svela che Francesca Pascale, cioè la fidanzata, forse prossima sposa di Silvio Berlusconi, di tutto l'entourage, di tutto il gruppo, di tutto il cerchio magico, di tutta la tribù, è quella che dice calma e gesso, questo Renzi non mi convince. Non convince la signora. Ha delle riserve. Ma su Renzi? Su Renzi, perché? Perché solo una canzone lo può spiegare, perché per lei esiste solo Silvio. Ma Giovanni, sì, secondo me, se parliamo d'amore, l'amore dovrebbe essere sottomarino. Cos'è questo, Pietrangelo? Qui mi tocchi proprio sul vivo, mi pungi nel sentimentale. È una canzone che ho conosciuto da bambino, quindi sai, io di solito quando faccio la doccia canto questa e altre di cui la dico. E quali altre? E non lo posso dire, sono vietate. Mi sequestrano il bagno schiuma, se lo dici. Ci sono anche queste le canzoni carine, vietate. Vabbè, insomma, è l'inno dei sommergibilisti. Se volete fare una gita romantica sott'acqua nei Caraibi, alla modica cifra di 175.000 sterline al giorno, voi andate a bordo del Lover's Deep con il vostro amato o la vostra amata e vi immergete. Che canzoniere di oggi? Il canzoniere di oggi, allora ricordiamo che chi indovina tra i nostri ascoltatori, che devono fare i nostri ascoltatori? Devono telefonare a 800 24 0024 349 238 6666 l'SMS, se ce la fanno. Se ce la fanno, avranno indovinare. Un bel libro edito da Feltrinelli. Adesso devono indovinare, siamo in zona vertici della letteratura universale. È un po' scollacciatino. Vai. Umana cosa è aver compassione degli afflitti, e come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richiesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hanno il trovato in alcuni, fra quali, se alcuno mai n'ebbe bisogno gli fu caro, già ne ricevette piacere, io sono uno di quelli. È l'incipit di un capolavoro. Mix 24. Allora, 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666, ma prima di avere le risposte al nostro gioco ci colleghiamo con Soci, con Valentino, Paolo Valentino del Corriere della Sera. Buongiorno, salve. Buongiorno Giovanni. Ciao, allora, ha funzionato l'anello d'acciaio tutto sommato? Si può ha dire? Ha funzionato anche molto bene. Ha funzionato molto bene. Ha non ci sono stati, almeno questo è stato perfetto, diciamo, no? Su questo non c'è dubbio, però devo dire anche che è stata perfetta l'organizzazione, sì. Nel senso che gli impianti olimpici sono molto belli, i trasporti hanno funzionato benissimo, tutti i colleghi americani che erano venuti qui a Sochi abbastanza critici, con molta prevenzione, con tutte quelle storie, gli alberghi che non funzionavano, dicendo si sono ricreduti. E tutti hanno fatto articoli di grande lode dell'organizzazione dei giochi. Sicuramente un'operazione d'immagine riuscita per Vladimir Putin. Senti, ma nel pattinaggio, la Costner, il premio, la medaglia d'oro è stata giusta? Parlavo un piccolo furto? Parlavo stamattina con degli esperti. Sì. Siamo in Russia. Sì. Siamo in Russia, certo, e non c'è dubbio, dubbio che la beniamina di casa abbia ricevuto qualche vantaggio. Sarebbe successo ugualmente in Canada, sarebbe successo ugualmente in Corea. Fra l'altro la coreana ha anche detto una cosa intelligente, cioè gli unici a non fare storie ieri paradossalmente sono stati i coreani, non hanno detto nulla. E lei ha detto: non avevo le stesse motivazioni di Vancouver. Ok. Quindi a diciamo niente di irregolare, la Costner ha fatto il suo al meglio. La medaglia della Costner vale tantissimo, perché di fronte a queste due atlete spaziali la sua medaglia vale tantissimo. Senti, non c'è dubbio. Ancora una cosa, ma Sochi, come viene vissuta la questione ucraina? Si sente questo rumore oppure no? Se devo essere sincero, assolutamente no. L'increspatura è avvenuta e si è avvertita all'interno della delegazione ucraina. Sì, che si è ritirata. Ieri c'è stata l'uscita di questa sciatrice che ha detto che voleva tornare a casa insieme a suo padre per protesta contro Yanukovych, ma lì è intervenuta la mediazione del vecchio Sergei Bubka, l'ex campione del mondo di salto con l'asta, che è riuscito a trovare un difficile equilibrio, e alla fine la delegazione e tutta la squadra ucraina resta, partono solo quelli che hanno già gareggiato. Quindi stamattina nello slalom gigante la ragazza, la Mazzosca, che aveva annunciato ieri di volersene andare, in realtà è scesa. Però non c'è dubbio che la tensione e il disagio all'interno della delegazione ucraina rimangono. Va bene, grazie, quindi tutto bene, quello che finisce bene, mi pare, a Sochi. Mario? Restiamo a Sochi in una chiave diversa, senti qua. Ogni tanto i comandanti russi, per vedere se sono seguiti, virano all'improvviso. È il cosiddetto Ivan il Matto. L'unica cosa da fare è il morto, spegnere i motori e diventare invisibile. Ma non è una cosa facile. E cioè, il fatto è che un sommergibile di queste dimensioni non si ferma di colpo. E se siamo troppo vicini, derivando, possiamo investirlo. Un film leggendario, Caccia a Ottobre Rosso, l'avrò visto non so quante volte, ho perso il conto, e per un libro bellissimo che era di Tom Clancy. Perché? perché Sochi è battaglia geopolitica anche, ed è un po', certo, una vecchia battaglia che abbiamo già visto in tutti questi anni, russi americani durante la guerra fredda. Le Olimpiadi, esatto, sono luogo di confronto, esatto, un luogo di confronto e di scontro. Allora è interessante leggere il medagliere per capire che cosa sta succedendo nel mondo, che gli sport invernali danno una piccola fotografia, esatto. Allora, gli Stati Uniti hanno 25 medaglie, i russi 23, i sorprendentissimi olandesi 22, i deludenti norvegesi 21, i canadesi, sempre molto forti negli sport invernali ovviamente, 20. Noi, piccoli italiani, 8 medaglie, nessuna d'oro, ma diciamolo, una grande Carolina Kostner. Ma intanto sentiamo se c'è qualcuno che ha telefonato per il nostro canzoniere. C'è Gregorio al telefono. È il Decameron del Boccaccio, l'incipit del Decameron. È una vecchia reminiscenza liceale, però. Insomma, ho dovuto googolare anch'io. La ringraziamo per la sincerità. Rispetto ai competitors, sono stato onesto. Insomma, sì, molto, è vero. No, questo va apprezzato. Dai, il premio all'onestà va dato. Vabbè, diciamo, diamogli il premio lo stesso. Giovanni, arriverà il Feltrinelli. Butta fuoco, fai da bravo. Il premio all'onestà va dato. Premio all'onestà va dato, però. Ti ricordo che sei anche candidato come ministro della cultura. Scusi, quindi, c'era reminiscenza liceale. Arriverà il Decameron nell'edizione Feltrinelli per lei. Bravo. Grazie. C'è ancora una bolla in pentola? Sì, è una bolla storica sulla quale poi vi eserciterete sia tu Giovanni che Pietrangelo, perché io voglio il vostro commento. Faccio partire una musica. Allora, il 21 febbraio del 1848 Karl Marx e Friedrich Engels davano alle stampe il manifesto. Allora, è molto importante perché lo pubblicavano dove? Nella patria del capitalismo, dove c'è la libertà. Chissà perché. Perché l'abbiamo detto prima, come disse Lenin, ci venderanno la corda con cui li impiccheremo. Io il vecchio buon Carletto lo vedo molto attuale, lo sai? Molto attuale. Che ne pensi tu, Giovanni? Ma io penso che effettivamente a rileggere si trovano molti stimoli interessanti, sì. Ma nel frattempo io voglio ridare la parola al nostro professor Simonelli, che ha qualcosa da dirci. Prima di tutto vi dico che ho indovinato senza googolare. Bravo professore. Bravo professore, ci fidiamo della sua parola. E poi volete sapere dov'era il canone? Il canone sicuramente ieri alle 19.14 era su Sky Sport e su Cielo, che hanno trasmesso in diretta l'esibizione di Carolina Kostner. Vabbè, lei, professore, aveva gli occhi che uscivano dalle orbite, immagino. Questa storia, insomma, di Carolina che vince finalmente una medaglia ad un'Olimpiade che non aveva mai vinto, è un grande racconto anche nazional popolare, certo. Quindi degno assolutamente del caso. E poi degno di una grandissima carriera. Poi, insomma, ieri sera un po' di canone c'era in due poli assolutamente opposti, perché attorno alle 21 sia sul Pop Sanremo, sul popolarissimo Festival di Sanremo Rai 1, sia su Classica, quindi in un punto all'opposto di Sanremo, c'era un sentito e decoroso omaggio alla Claudio Abbado. Quindi questa coincidenza oppositorum mi sembra sia il caso di segnalarla. Importante. Infine vorrei aggiungere una cosa su Sanremo, che riguarda non ieri ma oggi, questa sera. Prima di dire tutto il male che giustamente abbiamo detto di Sanremo... No, non giorni, abbiamo detto il male, abbiamo fatto delle critiche. Sì, beh, no, insomma, di giuste critiche, insomma, giuste e motivate critiche. Credo che da storico vorrei fare un appunto. Da anni la serata migliore di Sanremo è la serata del venerdì, La serata di celebrazione che ha riguardato negli anni passati anche il 150 anni, cosa, questa sera l'idea di celebrare il cantautorato italiano mi sembra un'idea interessante che potrebbe anche piacere molto a Buttafuoco, e quindi insomma stiamo anche a vedere stasera, potremmo ritrovare un po' di canone proprio a Sanremo. Ed è possibile. C'è Mario che vuol dire ancora una cosa? No, io vi volevo dare un'indiscrezione che mi è arrivata poco fa. Renzi potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri già oggi. Ah, bene. Guadagniamo un giorno. Ecco. Marina Milone oggi, nell'anniversario della morte di Don Giussani, ci farà un ritratto del fondatore di Comunione e Liberazione attraverso alcuni allievi e in chiusura un'intervista con il biografo di Don Giussani, Alberto Savonara, dopo il giornale radio. Grazie.